Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio, ultima puntata della settimana, e così da qualche venerdì ci stiamo spendendo nell'analisi di quello che accade sui mercati finanziari. Tra l'altro ne ha parlato questa mattina anche Giuliano Ferrara nella sua trasmissione Parliamo con l'Elefante. Il tema della crisi finanziaria continua ad essere al centro del dibattito generale, ma adesso forse sta cambiando un pochino la percezione della crisi alla luce di piccoli segnali incoraggianti, almeno lo speriamo. Da inizio marzo la borsa ha cominciato a riprendere quota, qualcuno manifesta la convinzione che il fondo sia stato toccato dalla crisi in tutti i suoi aspetti e con cautela si possa anche ripartire. Altri analisti, economisti sono molto più prudenti, sostengono che non è ancora il momento di abbassare la guardia e che ci si debba tenere pronti per altri ribassi, altri scossoni. Di fatto nessuno può prevedere con certezza assolutamente niente. Questa è l'amara, anche conclusione che dobbiamo trarre anche da quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Si può però cercare di interpretare, di analizzare quello che è successo negli ultimi giorni. È successo che Wall Street, ma anche tutte le altre piazze finanziarie, dopo la presentazione del cosiddetto piano Geithner, il segretario al tesoro americano, per liberare le banche dagli asset tossici, hanno cominciato a tirare un bel sospiro di sollievo, e in Europa la borsa italiana corre da qualche giorno e un po' più delle altre, mentre se si va a guardare i titoli di Stato la situazione invece è un pochino più incerta, perché i rendimenti continuano a scendere notevolmente e quindi anche questo approdo sicuro per molti risparmiatori comincia così un po' ad essere guardato con un po' più di scetticismo. Insomma, analisi delle ultime giornate sui mercati questa mattina con Angelo Drusiani, responsabile delle gestioni di Banca Albertini Sitz. Bentornato Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. E tra qualche minuto ci collegheremo anche con Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partners. Ovviamente, come sempre, microfoni aperti alla vostra collaborazione. Chiamateci all'8 00240024 per discutere con noi di questo argomento di questa mattina. 349-238-6666 il numero invece per i vostri messaggi, ne stanno già arrivando. E allora, visto che di mercato parleremo per tutta la trasmissione, diamo intanto un'occhiata a quello che accade questa mattina. Trend positivo in corso da diversi giorni a questa parte, sembra subire inevitabilmente un arresto quest'oggi, poi insomma molte altre giornate sono partite maluccio per poi cambiare direzione nel corso della giornata. Di fatto adesso abbiamo un calo a Londra dello 0,14%, un po' più consistente il calo di Parigi e di Francoforte, meno 0,7%, meno 0,8%, e ancora più consistente quello di Piazza Affari, meno un punto. D'altronde Milano è la piazza che ha corso di più nelle ultime settimane, i motivi li torneremo a spiegare questa mattina. Per quello che riguarda la giornata di oggi, abbiamo un calo di 3,5 punti su Intesa San Paolo. Banco Popolare è partito con un rialzo di 4 punti stamattina, subito bruciati, adesso perde 3 punti. Il titolo, anche questo, è un segnale della volatilità che continua ad imperversare in questo settore, questo comparto bancario. Saipem meno 3, Unicredit meno 2,74%, la Popolare di Milano meno 2,37%, UbiBanca meno 2,14%, ma non tutto il settore bancario frena stamattina a Milano, perché invece abbiamo un rialzo di 1,5 punti su Monte dei Paschi, partito molto meglio, il titolo guadagnava più di 6 punti, poi ha rallentato, ma questo è il premio del mercato ai conti del 2008, alla conferma della distribuzione del dividendo e al fatto che l'Istituto Senese farà ricorso ai Tremonti Bond per un importo leggermente inferiore rispetto a quello che era stato indicato dalla stampa negli ultimi giorni, in particolare dal Sole 24 Ore si è parlato di 2 miliardi di euro. Il gruppo ne chiederà 1 miliardo e 900 milioni, non è che sia molto più contenuto rispetto alle previsioni, però anche questo insomma è stato un segnale colto positivamente dal mercato. Il miglior titolo è Fiat, più 4,41%, da qualche giorno il settore auto sta riprendendo a macinare punteggio. STM più 3,81% sulla scia presumibilmente anche di quello che ha fatto il Nasdaq ieri a Wall Street. La ex Autostrade più 3,45%, Prismian più 2,54%. Questi titoli maggior movimento quest'oggi. Noi però analizziamo il trend delle ultime settimane di mercato. Cominciamo subito con la nostra scheda. Una settimana come quella che si chiude oggi, le borse mondiali non la vedevano da tempo. Più 9% il rialzo messo a segno dalla migliore, Piazza Affari, seguita da Tokyo, più 6,7%, e New York, più 6,2%. A dare il via agli acquisti lunedì scorso è stato l'annuncio del maxi piano da 500 miliardi di dollari da parte del segretario al tesoro statunitense Timothy Geithner. Un programma che prevede la creazione di un fondo di investimento che acquisirà i titoli tossici presenti nei portafogli delle banche americane per consentire agli istituti di dare una ripulita ai bilanci e tornare a erogare credito al sistema. E a festeggiare in borsa per prime sono state proprio le banche, protagoniste di veri e propri rally che hanno trainato a rialzo tutti i principali listini mondiali. Volano le banche, vola dunque Piazza Affari con il Banco Popolare, che in una sola settimana ha guadagnato circa il 30%. Mediolanum il 16%, UbiBanca il 15% e UniCredit il 13%. E se per molti il peggio sembra essere passato, bisogna comunque considerare che la volatilità degli indici è ancora estremamente elevata, ai livelli del 1987. Se da un lato comunque le borse, secondo gli operatori, iniziano lentamente a dare segnali di ripresa, il mondo obbligazionario appare sempre in tormento. Proprio ieri i buoni ordinari del Tesoro a 6 mesi hanno segnato un nuovo minimo storico, con un rendimento lordo pari all'1,168%. E meglio, non è andata ai titoli di Stato americani, i Treasury Bill, scesi in territorio negativo per la prima volta dallo scorso dicembre. A provocare il ribasso è stato il livello prossimo allo zero dei tassi sui Fed Funds, oltre alla corsa di banche e risparmiatori ad accaparrarsi i titoli. Gli investitori, dunque, nonostante la ripresa delle borse, preferiscono tenersi ancora lontani da eventuali rischi. 800 24 0024 ci ha raggiunto nel frattempo al telefono Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partners. Bentornato Gentili a Salvadanaio. Buongiorno, grazie a voi. Tema di mercato questa mattina al centro della nostra analisi. Cerchiamo, appunto, come avevo già preannunciato all'inizio, di interpretare un po' quei segnali che abbiamo visto negli ultimi giorni. Un netto recupero delle borse, un netto recupero che abbiamo analizzato anche venerdì scorso perché è in corso da inizio marzo. Insomma, ci dobbiamo credere quanto dobbiamo confidare in questa ripresa. Vi leggo anche quello che ha scritto il collega Moria Longo del Sole 24 Ore proprio questa mattina. La curiosa coincidenza è che il giorno in cui gli Stati Uniti confermano la più marcata contrazione del prodotto interno lordo dal 1982, Wall Street svetta del 2,33% e segna il più forte rialzo mensile dal 1987. Il Nasdaq è salito del 3,8%, spinto dai semiconduttori, ma forse sta proprio in questa coincidenza la chiave per capire se la crisi finanziaria abbia veramente toccato il fondo, se è vero che i dati sul PIL fotografano il passato e le borse anticipano le attese future, la performance di Wall Street potrebbe far ben sperare. Siete d'accordo con questa analisi, Angelo Drusiani? Io credo che contribuiscano due fattori importanti al miglioramento dei mercati. Da un lato c'è la percezione che l'intervento delle banche centrali e degli esecutivi, quindi dei governi, avranno degli effetti positivi sull'andamento dell'economia reale, io credo già dalla fine di quest'anno, in massimo all'inizio del 2010. Dall'altro canto c'è proprio questa situazione che ha fatto sì che le banche centrali, a differenza di quanto avvenne all'inizio del secolo scorso, siano state molto molto attente. Questa attenzione si è trasferita sulle borse, a differenza di quanto accadde in Giappone, dove i tassi di interesse scesero in misura molto molto lenta, contribuendo sì a un rialzo dei mercati, ma poi ad una caduta violentissima dei mercati stessi dopo qualche mese. Io credo che in Occidente il controllo della situazione sia stato molto più importante, e perché l'esperienza del oltre che delle banche centrali ci metto anche i governi, ci mettiamo. Assolutamente, assolutamente sì, difatti l'intervento dei governi, e questo è il secondo aspetto, l'intervento dei governi negli Stati Uniti, questo desiderio di acquistare, questa volontà di acquistare i titoli che hanno le banche, credo che sia potrebbe essere la volta che cambierà la situazione dei mercati, perché secondo me la grossa caduta dei mercati azionari non è stata dovuta tanto alla tesi di rallentamento delle economia o di recessione, come si vuol dire, ma il timore era legato soprattutto all'andamento delle banche, il timore che le banche potessero fallire, che le banche potessero avere degli andamenti molto molto problematici. Se finalmente le banche verranno liberate dai titoli che hanno in portafoglio, che è questo che secondo me impedisce loro di finanziare di nuovo l'economia, se verranno liberate da questi titoli, secondo me anche l'economia ne risentirà in maniera molto molto importante, di conseguenza le borse anticipano questa situazione. Questo è il motivo anche per il quale probabilmente questo piano Geithner, di cui qualche contenuto era già stato anticipato in febbraio, in realtà non era piaciuto affatto, adesso invece piace. Il tema è che non ci sono alternative, credo, Drusiani, ad un intervento così massiccio da parte dell'amministrazione americana. Assolutamente no, molti si lamentano perché c'è un interventismo eccessivo dello Stato, ma lo Stato non poteva fare diversamente. È meglio che aumenti il debito pubblico, anche se negli Stati Uniti aumenta a livelli eccessivi accanto al debito delle famiglie, situazione che da noi non si verifica, però non c'era altra soluzione, perché abbiamo visto cosa è successo con il fallimento di Lehman Brothers. È vero che è fallita perché non operava negli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti pensavano che gli effetti sarebbero stati poco dirompenti, esattamente accaduto l'opposto. Pensiamo se fosse fallita un'altra banca, una banca grossa intendo, perché di banche piccole negli Stati Uniti credo che ne siano fallite una quarantina dall'inizio del secolo, dal 2000 in avanti, quindi le banche piccole fanno poco effetto, ma se fallisce una banca grossa... Una banca commerciale che ha anche... Poi pensiamo con tutti i derivati, l'attività che fanno queste banche per conto di altri, cioè diventerà un caos abnorme. Poi soprattutto i risparmiatori, signori miei, hanno paura. Probabilmente messi su due piatti di una stessa bilancia, i due effetti, quindi o un massiccio interventismo da parte statale o comunque il fallimento di un'altra banca, probabilmente gli effetti preferibili sono quelli provocati dalla prima opzione. Carlo Gentili, lei come la vede? Intanto le chiedo anche un commento su questo recupero dei mercati a cui stiamo assistendo da qualche giorno a questa parte. Ma il recupero dei mercati, un recupero dopo una lunga caduta, lunga e profonda caduta, quindi il recupero ci sta tutto, soprattutto sono le motivazioni, mi aggancio a quanto detto poco fa da Drusiani, a quanto detto nel servizio introduttivo, le motivazioni mi sembrano abbastanza solide in questa circostanza, perché direi che sono da attribuirsi all'annuncio del piano Geithner, che mi sembra questa volta abbia centrato l'obiettivo. Io forse ho ripetuto anche più volte da questi microfoni l'idea che il punto centrale di questa crisi, l'epicentro, è il settore finanziario. Va risolto il problema dei titoli tossici, perché quello è l'elemento che mina il sistema economico nel suo complesso. Avere un sistema bancario globale che non riesce a stare in piedi perché l'entità dei titoli tossici detenuti in bilancio è tale da mettere a repentaglio la stabilità delle banche, questo è l'elemento principale che fa trasmettere a slavina la crisi sul settore economico reale, che subisce appunto gli effetti di uno scompenso a livello finanziario. Quello che mi preoccupa è che ho la sensazione che ancora alcuni governi, eccetto forse quello americano e quello inglese, devo dire che sono anche stati quelli più che si erano bendati gli occhi di fronte a questo, quindi oggi se intervengono prima non è un merito, è semplicemente il cercare di recuperare il tempo perduto, però a parte questi due governi ho la sensazione che molti altri governi, in particolare quelli europei, non abbiano colto il punto essenziale, cioè dobbiamo risolvere la questione dei titoli tossici. Qui è come se ci fosse un reattore nucleare che continua a bruciare, è inutile scopare per strada la fuliggine perché ci dà fastidio, perché è bruciata la centrale nucleare. Il problema prioritario è spegnere l'incendio nella centrale nucleare, perché se scoppia la centrale nucleare non c'è sporcizia, fuliggine o smog che tenga, il problema è ben altro. E l'intervento deve essere normativo. Ecco, le posso chiedere se si riferisce anche al nostro paese, Gentili? Sì, certo, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, mi preoccupano anche, perché poi quando si aprono questi fronti, dopo la guerra diventa ingestibile, insostenibile, perché i fronti diventano troppi, cioè quando, e per carità è un provvedimento che ha la sua validità, non intendo criticarlo nella sua specificità, ma penso agli aiuti, la rottamazione, abbiamo iniziato col settore dell'auto, adesso poi si pensa alla rottamazione del frigorifero, la rottamazione, probabilmente arriveremo anche alla borsetta di marca che va rottamata, invece bisogna di un'altra. Questa mi sarebbe una buona notizia per quello che riguarda me e la mia assistente che mi guarda da questa parte. Capisco che... No, a parte che sia, quindi lei sta dicendo che per esempio un intervento del tipo... Il Tremonti Bond non è una via per consentire alle banche di tornare a fare il loro lavoro, dato che comunque le banche italiane, abbiamo scoperto un grande problema di Tremonti Bond in bilancio, di asset tossici in bilancio non ce l'hanno. Ma io non so, in realtà non credo che sia poi così semplice la situazione. Ho la sensazione che il Tremonti Bond va nella direzione giusta come intenzione. Non so se tecnicamente è la via che avrei preferito, proprio perché purtroppo il nostro bilancio è ristretto, il governo ha messo a disposizione 12 biglio, ma 12 biglio sono niente rispetto al reattore nucleare che brucia. Diciamo avrei che... preferito la via della garanzia, come stanno facendo il governo americano e il governo inglese. Perché? Perché la garanzia sarebbe probabilmente, ma non sono un esperto di conti pubblici, ma sarebbe probabilmente costata meno a livello, diciamo, di esborso e quindi di indebitamento. Avrebbe favorito tutto il sistema bancario, perché a quel punto si poteva garantire non solo per 12 billion, ma si poteva garantire per ben di più. Tutte le banche avrebbero avuto forse, ma penso di sì, un beneficio in termini di spread, in termini di costo del debito, e questo si sarebbe ribaltato, o al limite si potevano obbligare a ribaltarlo, sulle imprese, sul sistema imprese. Quella è la via. 12 billion, le faccio un esempio, Royal Bank of Scotland e Lloyds Bank, due, specialmente la seconda, prestigiosissime banche inglesi, 15-20 giorni fa, vado a memoria, hanno consegnato al governo inglese 600 miliardi di sterline di titoli tossici, 600 miliardi. Ora, noi non siamo in quelle condizioni, ma le cifre che girano sono queste, quindi 12 miliardi contro due banche, in Italia quante banche abbiamo? 700-800 credo. 12 miliardi contro due banche che ne consegnano 600, capite che è un granello di sabbia, no? E che ci costa anche molto, perché a livello di bilancio 12 billion sono 12 billion. Forse con quei 12 billion si potrebbero fare, che ne so, pagare dei sussidi di disoccupazione, certo, o qualcosa del genere. Quindi, insomma, tutto questo costa meno. Tutto questo, in ogni caso, per confermare, avvalorare quello che è il ragionamento da cui è partito Gentili, non gridiamo tanto alla vittoria in questo momento. Dobbiamo ancora, come dire, scoprire, alzare il velo ancora su qualche problema nel settore bancario. E quindi anche questo fuoco di paglia della borsa degli ultimi giorni altro non è quello che poi in gergo molti esperti di trading chiamano il rimbalzo del gatto morto, che è terribile come affermazione, o comunque una rondine non fa primavera. Quindi questo, insomma, è il suo ragionamento, in sostanza. Gentili, soprattutto diciamo, non voglio drammatizzare, perché non penso che ci sia molto altro da scoprire. Voglio augurarmi che tutti gli organi abbiano fatto il loro lavoro, da quelli interni di auditing alle società di revisione, quindi visto che stanno uscendo bilanci, peraltro anche con sorprese positive, c'è anche quello delle banche, esatto. Ecco, questo ci tranquillizza, e quindi penso che quello che c'è da tirare fuori più o meno è stato tirato fuori. Quello che non significa che non si debba fare un intervento normativo anche sulla scia di quanto indicava poco fa. Ecco. Quello che mi preoccupa è che si continua a fare quello che è stato fatto fino ad oggi, cioè l'emissione di CDO, di CDS, di derivati, di strutturati, prosegue quotidianamente. Ecco che il reattore brucia ancora, nessuno l'ha spento, perché quando la profittabilità di determinati titoli è enormemente superiore, questo ingolosisce, perché è nell'animo umano, qualsiasi banchiere, qualsiasi finanziere, quindi infatti, si continua a evidentemente c'è chi compra ancora tutta questa roba. E non vorrei che qua, con una mano, si prendessero soldi pubblici o il denaro tra virgolette facile di Fed e BCE, e con l'altra si continuasse a collocare, mi passi il termine, porcherie esplosive sul mercato. È stato mercato, chiarissimo, ma da quando è iniziato. Gentili, volevo fare solamente un altro piccolo commento a Drusiani, poi devo andare in pausa, abbiamo anche degli ascoltatori pronti ad intervenire. Drusiani. Io credo che in Europa abbiano scelto una strada molto diversa dagli Stati Uniti, nel senso che hanno preferito entrare nei capitali delle banche, qui faccio riferimento soprattutto alla Germania, ma anche al Belgio, all'Olanda. E questo in effetti sembra quasi di voler nascondere i problemi sotto il tappeto, la polvere sotto il tappeto, perché sarebbe stato preferibile sicuramente liberare le banche dai grossi guai che hanno in portafoglio, in maniera tale che le banche diventino libere, che tornino ad essere quelle di prima. Sicuramente io quello che trovo difficile da portare avanti sarà la riforma del sistema finanziario, nel senso che fino a che noi avremo prodotti strutturati, prodotti derivati, il mondo cambierà assai poco, e l'avidità con cui le persone molto spesso si avvicinano a questa tipologia di strumenti fa sì che magari nell'arco di 4, 5 anni, 10 anni al massimo, potremmo ritrovarci nelle stesse condizioni di oggi. Infatti è molto curioso anche come molti banchieri continuino a dire: dobbiamo tornare a fare banca tradizionale, riportarci sul territorio. Poi magari sì, fanno una grande fatica a farlo, insomma, sono, perché poi non è un'attività che appunto genera profitti come quelli che si sono abituati a vedere negli ultimi anni. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, che questa mattina, come spesso capita a fine settimana, analizza l'andamento dei mercati finanziari alla luce di quelle che sono state le tendenze emerse di recente. Un bel recupero della borsa oggi, una frenata di circa mezzo punto percentuale in questo momento fra i principali listini europei, banche sempre sotto forte osservazione. Abbiamo avuto la grande stagione delle trimestrali, soprattutto per quello che riguarda il nostro paese, i bilanci del 2008, sono emerse delle sorprese piuttosto positive, infatti i titoli bancari bancari hanno recuperato molto a Piazza Affari, permettendo alla borsa italiana di essere sicuramente la migliore delle ultime settimane. E alla luce di tutto questo, poi ci sono delle tendenze anche particolari sul mercato obbligazionario. Adesso analizzeremo di nuovo tutto questo con i nostri ospiti. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Volevo chiedere ad Angelo Drusiani che cosa vuol dire che i rendimenti dei titoli di Stato americani all'asta di ieri sono finiti in territorio negativo. Com'è possibile che si possa produrre un fenomeno di questo tipo? Il fenomeno si produce perché c'è stato un eccesso di richiesta rispetto all'offerta da parte del Tesoro, ma soprattutto c'è una domanda da parte degli investitori anche a rendimenti bassissimi, pur di avere in portafoglio dei titoli che offrano sicurezza. In questa fase, l'abbiamo visto anche ieri sui bot italiani, il rendimento è sceso a livelli molto molto bassi, siamo ai minimi storici. Perché questo accade? Perché una gran parte di investitori, scottata da quanto è accaduto negli anni passati, preferisce al rendimento la sicurezza dei titoli del Tesoro, che in questa fase garantiscono quantomeno un miglior ritorno per quanto riguarda non tanto il rendimento, ma la garanzia del pagamento del capitale, quindi, e delle cedole del capitale. Quindi, questo ovviamente però è un fenomeno che si può verificare solo per titoli di brevissima durata. Sì, ma poi si verifica anche per periodi di tempo abbastanza brevi, quindi è sicuramente la dimostrazione che molti investitori preferiscono essere garantiti, avere sicurezza, che non rendimento. Secondo lei conosceremo questa tendenza anche nel nostro paese per i bot? Ma io credo che al limite potremmo scendere ancora di un po', scendere sotto l'1% lordo. Questo potrebbe avvenire in tempi abbastanza, abbastanza rapidi. Agli italiani credo che un rendimento negativo non piacerebbe tantissimo. Peraltro, se si considera quante perdite si sono accumulate nei portafogli nell'anno passato, credo che anche un rendimento molto basso, per quanto alla fine sarà un rendimento negativo, nel senso che sarà inferiore al tasso di inflazione, però in definitiva meglio vedere il capitale crescere nominalmente che anche se perde il potere d'acquisto piuttosto che vederlo perdere. Infatti questa è un'altra delle conseguenze della crisi finanziaria attuale alla quale dovremmo abituarci per un po'. Allora cominciamo un po' ad aprire i microfoni ai nostri ascoltatori e cominciamo con Mauro da Firenze, che aspetta dall'inizio della trasmissione. Mauro, benvenuto a Salva Danaio. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Senta, dottoressa, si tratta di questo. Lei ha prima parlato del famoso rimbalzo del gatto morto, no? Sì, lo chiamano così, è terribile. Tra l'altro, per me chiamo i gatti, io, si figuri. Silvestro, gatto maldestro, proprio pancia all'aria, proprio perché, brevemente, io ho un giardinetto con tutti i fiori sfioriti proprio... Vabbè, come ci sono molti giardinieri nella sua condizione, Mauro. Valenze degli anni trascorsi, ho puntato su alcuni cavalli di battaglia in epoca sbagliata, non facendo mai uso degli stop loss, quindi ripeto, ecco, qui si entrerebbe nel campo della finanza comportamentale, ci vorrebbe uno psichiatra, non è il caso. Ho puntato soprattutto io su un titolo come Eni, dico tanto sto tranquillo, in passato mi ha sempre dato delle ottime opportunità e quindi su quello sto tranquillo, sono altri i titoli che mi mettono in preoccupazione. E ce l'ho a una media considerevolmente più alta dell'attuale, vicino quasi ai massimi, faccio conto a 26,5 euro circa, un certo quantitativo, non riacquistate a 13 poco fa. Volevo chiedere, insomma, a lei e ai suoi esperti se questo è il momento appunto di rientrare in borsa su alcuni titoli che dovrebbero essere relativamente sicuri, che hanno sempre dato ai propri azionisti degli ottimi dividendi, appunto quale Eni, poi allora, certo, visto in un'ottica da cassettista, oppure se è meglio aspettare ancora, tergiversare, aspettare tempi migliori e rimanere liquidi, in liquidità o su qualche obbligazione. Carlo, sentiamo allora, in base all'analisi del suo giardinetto, e come dicevo prima sicuramente lei è un giardiniere dei suoi investimenti che ha una condizione simile a quella di molti altri giardinieri in questo momento nel nostro paese. Carlo Gentile, le chiedo un giudizio adesso a prescindere dal titolo esplicitamente citato da Mauro. Se comunque la propensione al risparmio, all'investimento di Mauro è quello del cassettista, come lui si è definito, allora secondo lei tanto vale la pena mantenere magari un titolo come quello sui prezzi ai quali lo ha acquistato, oppure insomma il tema della mediazione su questa debolezza è un tema valido a suo avviso? Ma diciamo, tanto da fiorentino a fiorentino rispondiamo, infatti. Quindi mi fa particolarmente piacere, ma sì, Direi due cose. Uno, non soffermiamoci mai, non diamo alcuna importanza al prezzo di carico che ciascuno di noi può avere su qualsiasi titolo. Perché sì, magari quello in, questo, in questa fase non lo diciamo agli azionisti di Banca Italease che magari ce l'hanno a 30-40 euro e adesso ci hanno un'OPA addosso a 1,50 euro. Comunque, a parte questo. Ma quello è un fatto, diciamo, psicologico, nel senso che se uno pensa che quell'asticella fissata a quel livello sia un riferimento per il mercato, si sbaglia di grosso. Quell'asticella è un riferimento solo per ognuno di noi che ha in mente chi ha comprato l'Eni, chi le Fiat, chi le auto Gri, chi un'altra cosa, e ognuno di noi ha in mente il prezzo. Ma la borsa, diciamo, ogni giorno riflette e riparametra i numeri e quindi i prezzi sulla base di quello che sta accadendo giorno per giorno o soprattutto di quello che si aspetta per il futuro. Quindi è un consiglio difficile, mi rendo conto, da accettare, ma i risparmiatori si dovrebbero gli investitori si dovrebbero dimenticare il prezzo di carico, perché è un elemento distorsivo che psicologicamente ci influenza, ma non dovrebbe influenzarci. Prima considerazione. Seconda considerazione, però, a questi livelli dei mercati, in linea generale, io non credo che sia opportuno vendere azioni, tenuto conto anche di quello che si diceva poco fa, cioè che i tassi di interesse sono ai minimi storici e questo ha delle ripercussioni positive sulle valutazioni dei titoli azionari, e quindi mi sembra difficile pensare che sia opportuno vendere quando le borse hanno fatto meno 50, meno 60 o anche di più in generale negli ultimi 12-15 mesi. Rovescerei il ragionamento. Se non si entra e se non si accetta di sopportare un rischio quando un bene è sceso del 60-70%, allora quando mai lo si farà? Certo, a zero non ci va, e quindi se non si entra quando una cosa è scesa del 70% vuol dire che non la si vuole a nessun prezzo. Siamo sinceri con noi stessi, no? Insomma, a zero non ci va, però abbiamo visto che negli ultimi mesi la distruzione del risparmio è stata sotto gli occhi di tutti e molti si sono giustamente anche spaventati. Quindi, insomma, ma il risparmiatore è un cassettista, quindi secondo me, se ha pazienza, certo, rivedere l'Eni a quei livelli secondo me sarà ancora, ci vorrà tempo, però una volta che la ripresa dell'economia ci sarà, perché nessuno auspica neanche una ripresa dei corsi dei prezzi del petrolio che già abbiamo visto negli ultimi giorni e non ci piace affatto però questa tendenza. Attenzione, perché se il valore del dollaro dovesse continuare a scendere, come non è improbabile che accada nel corso dei prossimi di mesi, conseguenza riprendiamo, perché gli Stati Uniti fa molto comodo che il dollaro si depresti, perché l'aumento delle esportazioni aumenta il PIL. Io credo che il prezzo del petrolio possa ritornare, non dico su quei livelli, però su livelli molto superiori a quelli di oggi. Andiamo ancora ai titoli di Stato. Raffaello da Bergamo. Buongiorno, miei cari. Ma grazie, buongiorno a lei, Raffaello, caro Raffaello. Volevo salutare le sue centraliniste gentilissime, dato che è caduta la linea due volte. Raffaello, io la ringrazio davvero tanto, perché sa che non lo facciamo mai, e allora vorrei ringraziare anch'io tutte le ragazze del centralino, a cominciare da Rosa. Adesso io, tra l'altro, poi cambiano talmente spesso turno che non ricordo le altre che sono in turno in questo momento, ma faccio documentare la mia collaboratrice Gaia, quindi la ringrazio molto per permetterci questo oggi, perché mea culpa e colpa di molti altri conduttori, non lo facciamo mai. Grazie, Raffaello. La sua domanda. Allora, la domanda è al dottor Drusiani, un saluto al dottor Gentilini, persone stupende che ammiro tantissimo. Bene, e grazie a loro sono uscito ad agosto di 2 anni fa, liquidato tutto. Ah, grazie, proprio. Tra l'altro a loro due credo che sia stato impossibile una circostanza di questo tipo, però ci dica, Raffaele. Bene, nel sentire e nel seguire. Domanda al dottor Drusiani. A questo punto, con una liquidità totale, cosa fare? Puntare sull'indicizzato, dato che secondo lui nelle trasmissioni dice che alla fine anno è probabile che ritorni l'inflazione, o reddito fisso sotto la pari, però scadenze molto lunghe? E per il dottor Gentilini, veloce, la famosa, più che il gatto morto non c'è più neanche la pelle americana, la, non so se la pronuncio giusto, la ING, la International American Insurance, sì, group, sì, il gruppo assicurativo, sì, esatto, quello che è al centro della polemica per i bonus ai manager. Bravissima, una scommessa, ci credo, una risposta a tutti e due, complimenti, continuate così. Grazie, Raffaello. Drusiani. Io credo che sui titoli a lunga cedola fissa sarebbe opportuno, si potrebbe entrare anche adesso, però occorre essere dei trader, nel senso di venderli nell'arco di un paio di mesi se le quotazioni dovessero tornare dovessero salire su valori ancora superiori, perché qualcuno si attende che le banche centrali europee possa diminuire i tassi di dura fino allo 0,50. A me sembra eccessivo, però in questa fase non si può escludere nulla. Mm-hmm. Quindi se è vero come è vero che molti si aspettano un taglio all'1% già da settimana prossima, quindi da giovedì prossimo, non è da escludere che in estate possa accadere anche un taglio ulteriore. Quindi, I livelli americani sicuramente la Banca Centrale Europea non ce li farà praticare, perché questo lo hanno i banchieri, mi sembra completamente escluso. Però sa, in una fase come questa non si può mai dire nulla. E quindi io credo che in questa fase si potrebbe investire in titoli a cedola fissa con durata non lunghissima, in attesa di valutare cosa accadrà verso fine anno. Comprare adesso dei titoli a cedola indicizzata, in particolare dei CCT, non ne vale la pena, perché sicuramente nel corso delle prossime aste del Tesoro il rischio che il rendimento del bot semestrale scenda ancora e quindi che incida sulle cedole dei CCT esiste. Quindi potremmo avere ancora 6-8 mesi di cedole CCT in calo, quindi conviene aspettare. Mm-hmm. Però verso fine anno io penso che valga la pena mutare in maniera importante la composizione del proprio portafoglio, orientandosi verso i titoli a cedola indicizzata. Ecco, ciò che si potrebbe fare in questa fase è comprare dei titoli, dei BTP, mm-hmm, indicizzati all'inflazione, perché indubbiamente questi nel corso dei prossimi anni potrebbero dare dei risultati interessanti. Però in questo caso la durata minima va dai 5 anni in avanti, perché un'indicizzazione all'inflazione con durata biennale secondo me non ha senso. No, anche perché adesso prima che riprenda anche a correre, certo, questa, insomma, certo, e speriamo che non lo faccia neanche in maniera tanto esaltata come ha fatto ad agosto scorso. Secondo me c'è qualche riferimento ai tassi Euribor, non so perché. Chissà, vabbè, siamo sempre tutti molto ossessionati da questi tassi interbancari. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Allora, le saluto le ragazze del centralino al termine della trasmissione. C'era una domanda per Carlo Gentili, del nostro ascoltatore di poco fa, però gli volevo mettere insieme anche quello che a Gentili vuole chiedere Fabrizio da Milano. Fabrizio, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Ci dica. No, io volevo appunto fare una domanda a Carlo Gentili in relazione ad un intervento che ha fatto poco fa, ma magari anche introdurre qualche elemento di riflessione. Premesso che sono un fondista, sono un sottotitolo di fondi da sempre, ho 40 anni e da quando risparmio. Mm-hmm. Sono un fondista molto soddisfatto. La sentiamo con un po' di difficoltà, Fabrizio, sta utilizzando un auricolare, magari si può mettere un po' più vicino alla cornetta del telefono? Mi sentite meglio? Molto meglio, Fabrizio, la ringrazio, sì. Chiedo scusa. Forse sono un fondista soddisfatto perché ho avuto modo da un lato di preoccuparmi personalmente un po' delle scelte dei miei investimenti e dal lato di avvalermi, ho avuto questa fortuna, di bravi consulenti che mi hanno aiutato a scegliere i prodotti. Meno male. Ora, succede questo, che da qualche tempo quando mi reco in banca e chiedo di così utilizzare i miei risparmi, mi viene proposto di tutto meno che i fondi comuni. In particolare mi vengono proposte sistematicamente le obbligazioni bancarie della loro banca, e mi spiegano che hanno bisogno di fare questo tipo di operatività per fare questa raccolta, sostenere. Beh, guardi, tanto di cappello che glielo dicono, che comunque ammettono esplicitamente il bisogno che hanno di fare una raccolta attraverso questo strumento. Fabrizio, ci dica. Sì. Il punto è che poi quando io insisto per avere addirittura, come dire, per aumentare il mio giardinetto di fondi comuni, trovo addirittura delle resistenze. La mia domanda allora è questa. Sentivo il dottor Gentili che diceva che il veicolo dei Tremonti Bond potrebbe essere non sufficientemente efficace e sono molto meglio le garanzie dello Stato. Ma se così fosse, le banche non continuerebbero ad emettere solo ed esclusivamente le loro obbligazioni, a maggior ragione garantite dallo Stato, e smetterebbero a questo punto definitivamente di proporre prodotti che secondo me, alla luce della mia esperienza, sono trasparenti, semplici, efficaci e hanno, se collocati correttamente, che mi rendo conto che anch'io ci ho messo del mio impegnandomi un po' a capire quello che compravo, danno delle soddisfazioni ai clienti. Fabrizio, il dottor Gentili non si occupa di fondi comuni. Sì, sì, certo, come no. Gentili. Sì, certo, è il suo lavoro, diciamo. È il mio primo pensiero la mattina, fondo comune. Esatto. Fabrizio sfonda una porta aperta, no, su quello che è successo all'industria del risparmio gestito negli ultimi anni. I massicci disinvestimenti sono stati determinati da questo. La banca preferisce vendere tutt'altro, a maggior ragione adesso, Gentili. Assolutamente, ma per questo che io insistevo anche prima nel dire che è necessario un intervento normativo che vada, lo dico genericamente, a sciogliere i conflitti di interesse che hanno attanagliato il sistema bancario e finanziario, lo diciamo da tanti anni, in maniera crisi più gravissima negli ultimi 10-15 anni, cosa che peraltro il governatore della Banca d'Italia ha indicato più volte e quindi ha puntato il dito nella direzione giusta, e probabilmente le condizioni di mercato non gli hanno consentito un'efficacia al 100% su questo fronte, però è necessario anche l'intervento del Parlamento. Sono d'accordo con quello che dice il nostro ascoltatore, c'è il rischio che le banche ovviamente propongano sempre meno i prodotti, cioè quello che poi di fatto purtroppo è successo, i prodotti meno interessanti per lei, e proponga sempre i prodotti più interessanti per lei. Meno interessanti perché meno remunerativi per la distribuzione, certo. Ci sono commissioni. Tutto sta nel regolamentarla e nell'impedire questo tipo di attività qua. No? Perché si può anche intortare una persona che non capisce molto bene la natura dei prodotti di investimento. Neanche Fabrizio, che comunque sa benissimo quello che vuole comprare, conosce molto bene la differenza fra il fondo comune e l'obbligazione bancaria, neanche lui riesce a spuntarla, pur avendo probabilmente una capacità dialettica anche con la persona allo sportello che gli dovrebbe fare la miglior consulenza in quella fase, Drusiani. Però io credo che se la banca ha tra i propri prodotti un fondo comune non possa certamente resistenza ce ne saranno, perché la vendita dei prodotti diretti ovviamente garantisce maggiori commissioni e comunque un ritorno di capitale per l'azienda che è molto più interessante. In altro caso ci sarebbe solo una commissione di intermediazione che ha poco effetto. E insomma, siamo passati di palo in frasca stamattina, però è evidentemente quello che sta anche accadendo in questo momento. Volevo sentire Alessandro da Torino, perché purtroppo ci rimane poco tempo, ma mi pare che abbia una domanda molto interessante. Alessandro. Sì, salve, buongiorno a tutti. La mia domanda, grazie per averla giudicato interessante, io la giudicavo un po' naif, a dire la verità. Sentiamo allora, come magari me l'hanno scritta male, Alessandro, vediamo. Per allora, rapidissimo che stiamo chiudendo, sì. Ok, immaginando di avere un capitale liquido intorno ai 50-100.000 euro, per diversi motivi uno ce li può avere liquidi in banca, invece che andare a lanciarsi magari appunto in bot, CCT o cose strane, però cose che rendono pochissimo, perché non metterli semplicemente in questi conti online tipo il Kebanca o giusto per non fare i nomi? Alessandro, abbiamo fatto tante puntate dedicate a questo argomento, analizzando anche il funzionamento, i rendimenti dei conti online, che ovviamente sono stati premianti rispetto fino a qualche tempo fa, perché ovviamente viaggiavano in linea con i tassi di interesse. Adesso però i tassi di interesse in Europa stanno scendendo e le remunerazioni dei conti online si stanno adeguando nella stessa misura, forse ancora continuano a rendere un po' di più dei titoli di Stato, Drusiani. Io credo che il tema è non mettere tutto nello stesso posto. Infatti lei mi ha anticipato, io credo che sia opportuno in ogni modo, quando si fanno degli investimenti, diversificare sia la controparte con cui si fanno le operazioni, sia i prodotti che si mettono in portafoglio. Cosa intendo dire? Intendo dire che non si può avere tutto in conto corrente, o tutto in botto, o tutto in CCT, o tutto in titoli tedeschi, per dire. Ma occorre differenziare, perché comunque la rischiosità più differenziata meglio è, perché di fronte ad esempio a delle situazioni di difficoltà che possono verificarsi a qualunque livello, quantomeno l'effetto sul patrimonio è molto diluito. Io devo salutarvi perché Salvadanaio anche questa mattina è terminata. Grazie ad Angelo Drusiani, a presto. Grazie a voi. E a Carlo Gentili, buona giornata. Sì, posso puntualizzare una cosa? Certo. C'è un elemento più grave, cioè più determinante del perché non comprare, non investire sul conto. Perché, non faccio nomi, ma tutte le banche che hanno quel tipo di offerta lì hanno obbligazioni che rendono di più. Quindi non ha senso mettere soldi su un conto vincolati per un anno e poi quando scade il tasso non sarà mai più quello, vista la tendenza, quando si può comprare, se si ha fiducia in quella banca, un'obbligazione di quella banca che paga di più. E se paga di più è perché il mercato non ha fiducia in quella banca. E poi comunque ognuno deve fare anche quello di cui ha bisogno, ma questo è un altro tema, e se magari il conto di deposito è quello che corrisponde alle proprie esigenze, si prenda quello, conoscendo la natura del prodotto. 800, sì, no, che numero verde, devo salutarvi, volevo ringraziare Nicole, Rosa e Sabrina in centralino perché l'avevo promesso, naturalmente Filippo Aureggi in assistenza tecnica, le mie collaboratrici Gaia Romani e Valeria Coffaro, Salva Danaio e Soldi e Dintorni. Noi torniamo lunedì prossimo, buon fine settimana a tutti. Salva Danaio.